Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente ampio spazio sia in apertura della prima ora che poi alle 18 al vertice straordinario dei leader europei, capi di governo, primi ministri a Bruxelles, in una Bruxelles paralizzata non solo dalla neve ma anche e soprattutto dallo sciopero che in Belgio è stato indetto contro il piano di austerità, anche lì varato dal governo nazionale. L'obiettivo è capire, lo dico in estrema sintesi, se ottenute le garanzie che la Germania continua a chiedere, si chiamano, vanno sotto la voce di fiscal compact, in realtà di fiscale hanno poco, alcuni traducono l'inglesismo in maniera a mio avviso un po' troppo letterale, sono le garanzie sui vincoli di bilancio che gli stati dovranno sottoscrivere in modo da essere ancora più chiamati a rispettare quello che è il deficit, la riduzione del deficit e la riduzione del debito. Dicevo, il tema è se ottenuto questo la Germania a questo punto mollerà, passatemi in termine, su altri temi, cioè su quelle che vengono chiamate anche politiche per la crescita in Europa, a partire dall'ipotesi dei cosiddetti eurobond, ossia che l'Europa possa mettere, l'area euro possa emettere obbligazioni, debito, per finanziare non spese passate, ma per finanziare progetti futuri. Di questo parleremo in apertura, anche perché prima del vertice europeo si è tenuto, come ricordavano i nostri GR, il vertice a tre, quello dello scorso 20 gennaio, che poi è saltato, Sarkozy non poteva per motivi di politica elettorale interna, il vertice a tre, dicevo, tra Angela Merkel, Nicolas Sarkozy e chiaramente il nostro primo ministro Mario Monti. Dopodiché la vicenda fondiaria SAI, le novità ma anche le proteste che ci arrivano da molti ascoltatori per quello che lamentano essere stato un trattamento ingiusto degli azionisti fondiaria SAI e ancora gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria. Fermo restando che le borse restano negative, non in maniera drammatica, Milano meno 0,80%, peggio fa Parigi meno 1,40%, Francoforte meno 1%, Londra meno 1,24%, l'America perde lo 0,70%, l'euro però è stabilmente sopra quota 1,31, a 1,31,16. Oggi vendite di nuovo sui bancari, come già avvenuto venerdì dopo due settimane di corsa sui titoli bancari. Popolare Milano perde il 5,60%, il Banco Popolare il 4,70%, Mediobanca il 4,40%, ancora il Monte dei Paschi il 3%, Popolare Emilia Romagna il 2,40%, Ubibanca il 3%. Per cento di calo, Unicredit 1,5% di flessione, come Intesa San Paolo. Il peggior titolo però tra quelli a maggiore capitalizzazione è Finmeccanica, meno 6%, segnaliamo anche Prismian, ossia l'ex Pirelli Cavi, meno 4%, ST Microelectronics meno 3,80% e Mediaset meno 3%. Tra chi guadagna, poca roba oggi, l'Automatica più 1,80%, in pregilio più 1%, Enel più 0,70%. L'ultima cifra, come sempre, quella è il numero per i vostri sms, 349-238-6666. Andiamo subito con le notizie in breve. Petrolio sotto i 100 dollari al barile, a 98 dollari e 64. Oro sempre forte invece a 1717 dollari l'oncia. Diminuiscono sul fronte europeo le entrate e i redditi e i risparmi delle famiglie europee. Oggi i dati diffusi da Eurostat segnalano nel terzo trimestre del 2011 redditi in calo in termini reali, quindi al netto dell'inflazione, dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre addirittura di quasi l'1% rispetto a un anno prima. La Francia nel frattempo, tramite il premier François Fillon, ha rivisto al ribasso tutte le stime di crescita. Nel 2012 dall'1% previsto non si andrà oltre uno 0,5%, quindi stagnazione anche in Francia e non solo in Germania. Recessione invece in Spagna, seconda recessione in 3 anni dopo il dato diffuso oggi sulla parte finale del 2011, meno 0,3% per la Spagna. Tant'è che il premier spagnolo Mariano Rajoy ha detto: non raggiungeremo gli obiettivi di bilancio nel 2012 12, dovremo rivedere tutte le stime. Una notizia non bella arriva invece dal Portogallo, che continua a essere oggetto di attenzione, diciamo così, attenzione negativa da parte della finanza internazionale. Lo spread tra le obbligazioni portoghesi e quelle tedesche, quindi la differenza tra quanto costa al Portogallo indebitarsi rispetto a quanto non costi la Germania, che è il paese più virtuoso, beh, 1420 punti. Praticamente il rendimento di un BTP a 10 anni del Portogallo va al 16%. Praticamente il costo per assicurare 10 milioni di dollari di debito portoghese è schizzato a 3 milioni e 950 mila dollari da pagare in anticipo, più altri 100 mila dollari da pagare annualmente. E la Banca Centrale Europea sta intervenendo oggi acquistando debito lusitano, debito portoghese. Lo spread italiano è tornato sopra i 400, ha fatto 430, poi è sceso a 425 e resta, lo ripetiamo ogni volta, un livello troppo alto, ancora alto. La notizia buona è che l'asta dei BTP italiani a 10 anni, oggi ne abbiamo collocati 2 miliardi, beh, ha visto rendimenti in sensibile calo di quasi 90 punti rispetto a dicembre. Dal 7% quasi di dicembre si è scesi al 6,08%, è un risparmio, un punto percentuale di PIL vuol dire più o meno 17 miliardi di euro, però ancora molto alto. A 5 anni sono scesi al 5,39% invece i rendimenti sempre dei BTP, anche qui un calo di oltre un punto percentuale, al 6,47% il rendimento a dicembre 2011. È chiaro che più cala il rendimento, più vuol dire che, o meglio, meno dobbiamo pagare per indebitarci, con un beneficio per le casse del paese. Ancora due dati molto molto veloci. Il tasso di fiducia delle imprese italiane a gennaio 2012 è sceso al livello più basso dal novembre del 2009. E anche questo vale non solo per le imprese manifatturiere, ma anche per le imprese del commercio. Addirittura qui siamo scesi ai livelli più bassi dal 2003 come fiducia. Una battuta sulle agenzie di rating. È iniziata questa mattina l'audizione al tribunale di Trani. La procura di Trani sta indagando su Standard & Poor's e su altre agenzie di rating per il ruolo avuto nel segnalare o dare voti con un tempismo per alcuni sospetto. Ma dicevo, è in corso e si è tenuto questa mattina soprattutto l'interrogatorio da parte del PM inquirente Michele Ruggero del numero uno di Standard & Poor's Italia, Maria Pierdicchi. Sono coinvolte tutte e tre le agenzie, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, assieme ad otto analisti sono indagate per i reati contestati a vario titolo di aggiotaggio, market abuse e insider trading. Maria Pierdicchi però è stata sentita come testimone. E la procura di Trani non esclude di allargare l'indagine sulle tre agenzie di rating ai recenti declassamenti a catena seguiti a quelli del downgrading del nostro debito sovrano. Lo ricorderete, due scalini e una botta sola. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito con il vertice europeo e il pre-vertice a tre: Merkel, Sarkozy e Mario Monti. Lo commenteremo con un ospite d'eccezione, anche perché lo useremo come nostro analista, mettiamola così. Mi riferisco al vicepresidente della Commissione Europea, nonché responsabile per l'industria e imprenditoria, Antonio Tajani. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, vediamo un po' quale sarà anche la sua opinione. Tra l'altro, sulle agenzie di rating, proprio lo scorso fine settimana, adesso lasciamo stare la procura di Trani, ma lei ha detto, insomma, che appare abbastanza evidente che ci possa essere una volontà, un desiderio di appoggiare il dollaro. Ma, mi sembrano alcune decisioni prese da queste agenzie prese ad orologeria, delle scelte che lasciano un po' perplessi, non aiutano l'euro, la zona euro, semmai aiutano il dollaro.

questa nostra economia reale italiana, che insieme a quella francese, ancor più quella tedesca, e poi pensiamo alla Finlandia, alla Polonia, che sono gli altri paesi industrializzati, ecco, possano essere protagonisti della fase di superamento della crisi. Allora, questo deve passare attraverso però un esercizio, un atto europeo, perché sappiamo che tutti i paesi che aderiscono all'euro e all'Europa hanno la spada di Damocle del rischio dell'aiuto di Stato. Cioè, noi non possiamo fare iniziative volte a sostenere le nostre imprese in maniera diretta come avremmo fatto 30 anni fa, perché vai sotto ti configuri come aiuto di Stato. Una domanda però: quando il Financial Times scrive, beh, forse a questo punto l'Italia con il governo Monti tecnico è messa meglio di altri paesi, cioè la Merkel andrà sotto elezioni, Sarkozy andrà sotto elezioni, lei è d'accordo? Cioè, messa meglio come capacità, diciamo, di riformare? Ma l'Italia ha tempo fino al 2013 per risolvere una serie di problemi. Dopo ci saranno le elezioni e vincerà chi avrà più consenso fra i cittadini. Lo stesso discorso vale per la Spagna, dove Rajoy ha vinto le elezioni, ha 4 anni di tempo per avviare una serie di riforme. Le sue proposte sono simili a quelle italiane e quindi certamente chi ha più tempo per lavorare non è costretto a sottoporsi, perché deve effettuare delle riforme, al giudizio immediato degli elettori, gode di un potere contrattuale maggiore di chi invece ha l'appuntamento elettorale a 2-3 mesi. Vale per Sarkozy, la Merkel li ha più a lungo termine, però Sarkozy, la Francia va al voto per le presidenziali fra qualche mese, quindi da quel punto di vista è più difficile adottare riforme senza guardare i sondaggi, senza guardare quello che accade all'interno del paese. E veniamo adesso a che cosa fare sul fronte crescita. Cioè, immaginiamo, chiaramente, Gerardo, se poi tu hai una domanda per il commissario Tajani, non esitare a farla in questa fase. Ma posso salutare Antonio? Sì. Ciao, come stai? Ci diamo del tu, perché siamo giornalisti, ho fatto per 20 anni il giornalista, anche radiofonico. Questa non è una domanda, però. Gerardo, questa non è una domanda, o è una domanda? No, è servito per ricordare salutare. Che sono giornalista, però. Vabbè, allora, no, a parte gli scherzi, Gerardo, se tu vuoi intervenire quando vuoi, io vorrei passare alla fase successiva. Cioè, immaginiamo che tutto vada come dovrebbe andare, e cioè che la Germania sia contenta dell'accordo sulle politiche di bilancio, sui vincoli più stringenti, su questo accordo internazionale, quello che va sotto il nome di Fiscal Compact, si rassereni su questo fronte, e a questo punto la fase successiva, lo diceva prima anche Pelosi, deve essere il Cresce Europa, per usare i termini che sono. Allora, a me sembra personalmente che gli euro bond appoggiati dall'ex ministro Tremonti, dal presidente Juncker, fossero una strada, se ragionata, se fatta con attenzione, percorribile. Vorrei sapere la sua opinione, e se sì, in che termini. Cioè, emettiamo nuovo debito, i tedeschi temono che in questo modo i paesi del sud scaricheranno sui tedeschi il debito loro. Partiamo dalla premessa. Il cancelliere Merkel, nell'intervista che ha rilasciato ad alcuni quotidiani europei, uno dei quali italiano, qualche giorno fa, ha detto: bene, se si risolvono alcuni problemi che riguardano la politica finanziaria, se si rimettono a posto i conti in Europa, possiamo cominciare a discutere eventualmente di Eurobond. Io non la considero un rinvio alle calende greche, lo considero invece una apertura quantomeno teorica, perché è la prima volta che c'è un certo tipo di disponibilità, sia pure a lungo termine. E questo significa che il dibattito sugli eurobond è di estrema attualità. La Commissione europea ha presentato un suo libro verde, presentando anche una serie di ipotesi diverse. Una di queste potrebbe essere anche gradita alla Germania, perché pone il limite del patto di stabilità per quanto riguarda la garanzia, oltre il 60% non sarebbero più garantiti a livello comunitario. Io credo che però, per essere concreti, si possa partire per esempio dai project bond, cioè dei bond europei finalizzati a mettere a debito per un progetto, per esempio, di infrastrutture. Noi lo abbiamo proposto nelle prospettive finanziarie 2014-2020 per quanto riguarda il progetto Connetti l'Europa. Sono 50 miliardi nel bilancio, di cui 40 di fondi comunitari e 10 di project bond. Ora, la proposta è davanti al Parlamento europeo e davanti al Consiglio. Ecco, questo può essere un primo passo. Sono anche andato a Berlino qualche settimana fa per incontrare la Confindustria tedesca, la BDA, e per incontrare le piccole e medie imprese tedesche. Il primo messaggio è stato un po' respinto con perdite, ma alla fine della cena con la BDA e alla fine della colazione con le piccole e medie imprese, però spiegando che l'Eurobond non era uno strumento per far pagare ai tedeschi i debiti degli altri, ma era uno strumento che serviva alla crescita, che era un qualche cosa che faceva andare avanti l'intera Europa, anche per realizzare quella politica che era la politica di Helmut Kohl. Ricordiamo che la Germania è stata per tanti anni portabandiera della politica comunitaria. Ecco, un passo in avanti verso l'Europa comunitaria alla quale ci aveva abituato a credere la Germania di Kohl. E io credo che quel progetto non possa finire, per lo stesso motivo per cui sono un sostenitore degli Eurobond, sono un sostenitore di una banca centrale che possa svolgere un'azione più per la crescita, non soltanto per il controllo dell'inflazione. Bisogna dire la verità che Draghi, con il lavoro che sta svolgendo, senza mai violare le regole che sono imposte alla Banca Centrale Europea, riesce comunque in qualche modo ad utilizzare... Come battuta potrei dire che sta fregando i tedeschi senza che se ne accorgano, però è una battuta, nel senso che è riuscito a... Francoforte, i tedeschi sono sempre molto vigili. Ci mancherebbe lì dentro. Però è riuscito a dare una nuova connotazione alla Banca Centrale Europea, pur restando nei vincoli, a mio avviso, sbagliati di una banca che non garantisce in ultima istanza e non può stampare moneta, e poi ha come unico mandato l'inflazione. Siamo d'accordo. Tajani, mi dica una cosa: se ci dovesse essere invece l'ipotesi B, che la Germania continua una posizione molto rigida, che non accetta gli euro bond, secondo lei il rischio è che esca la Germania dall'euro o che finisca l'euro tout court? Io escludo questa ipotesi. Anche nel caso greco abbiamo visto una posizione tedesca molto molto da commissariamento della Grecia, cioè se la Germania continua una politica di no, finisce l'euro o esce la Germania? Io credo che in ogni trattativa ci sia sempre qualcuno che fa crescere le proprie richieste per ottenere quello che ritiene il giusto. Ecco, alcune posizioni della Germania io le interpreto come posizioni che servono da richiamo per ottenere risultati importanti. Alla Grecia, come agli altri stati, noi dobbiamo chiedere però quello che effettivamente possono fare. Facevo qualche tempo fa l'esempio: se io parlo con mio figlio e mi rendo conto che deve fare l'esame di maturità e fino ad oggi non ha studiato, non posso pretendere che domani mattina sia pronto per parlarmi di Hegel, di Fichte, di Kant, di Croce e di Gentile, perché non lo può fare. Se gli do 10 giorni di tempo, può essere che studiando 24 ore su 24 lo faccia, ma se penso che domani mattina studi 10 filosofi, gli chiedo una cosa che non può fare. Ma quindi secondo lei non c'è un rischio di tenuta dell'euro, di fine dell'euro? Io credo assolutamente no, perché la fine dell'euro significherebbe una gigantesca crisi economica, è come se finisse il dollaro. Io questo non lo credo assolutamente. Certo abbiamo delle difficoltà, certo c'è chi attacca pesantemente l'euro, ci sono degli speculatori che giocano sul mercato, ma ci sono anche degli speculatori che secondo me sono d'accordo per attaccare l'euro, quindi con un disegno finanziario, non so se politico, e per questo dico che a volte le agenzie di rating intervengono nel momento in cui c'è l'attacco di alcuni speculatori o nel momento in cui devono essere prese delle decisioni. Guarda caso, arrivano sempre ad orologeria le opinioni di queste agenzie che non sono al di sopra di ogni sospetto. Lei il suo mandato quando lo finisce? Nel fine 2014, inizio 2015. E dopo vorrebbe rientrare in politica in Italia? Cioè, o se venisse chiamato nel 2013? No, perché qua dobbiamo anche immaginare che ogni partito, pur dentro diciamo l'appoggio costruttivo al governo Monti, inizia anche a ragionare sul 2013. A lei interesserebbe tornare in Italia a fare... Ma io cerco sempre di portare a termine le cose che faccio. Sono ormai dal 1994 che lavoro nelle istituzioni europee, ho fatto per 15 anni il parlamentare europeo. Il mio obiettivo è quello di arrivare a concludere anche questo mandato. Ma se la chiamasse in un commissario? Beh, se mi dovesse chiamare, vediamo. Però credo che sia importante intanto lavorare per uscire da questa crisi puntando sulla crisi. Io sono commissario all'industria, il mio obiettivo è quello di far tornare la politica industriale, la politica a favore delle imprese e anche quella del turismo e dello spazio Basso, che sono due settori estremamente importanti della nuova politica industriale al centro. Noi abbiamo bisogno di arrivare a questa terza rivoluzione industriale. Ecco, il mio impegno è focalizzato su questo. Io ho una momento. Domanda finale per lei sul pagamento, i ritardi dei pagamenti italiani alle imprese, la sanità soprattutto, 60 miliardi, c'è una direttiva europea molto importante. Però vorrei sentire Gerardo Pelosi, ha una domanda per il commissario Tajani? Sì, volevo chiedergli questo al presidente Tajani. Se lui non ritiene che troppo spesso noi commettiamo l'errore, osservatori, ma forse anche il mondo politico, di considerare il frutto di un negoziato, per esempio sugli Eurobond, qualche cosa di tecnico, invece di vedere l'aspetto soprattutto politico dell'opinione pubblica tedesca, che per esempio è molto preoccupata del fatto che la Grecia debba adesso affrontare una situazione di pagamenti molto pesante e quindi magari invece dei 130 miliardi previsti 145 a scadenza. E quindi se per esempio si possa immaginare, come dire, un'Europa politica che è quella che si sta vedendo con la Merkel che fa il supporto politico a Sarkozy come diciamo nelle campagne elettorali che sta sconvolgendo un poco anche il resto dell'Europa, cioè le campagne elettorali francese prima e forse tedesca dopo rischiano di trasformare proprio i temi sul tappeto. È chiarissima la domanda, Gerardo, cioè c'è una componente politica che non può essere spiegata solo con la bontà del progetto economico. No, assolutamente sì, il problema è politico, la crisi è politica, se non c'è fiducia da parte dei cittadini questo è dovuto alla politica, ecco perché serve una risposta forte a partire dal Consiglio, serve che siano fatte delle scelte importanti da parte dei vertici politici europei. Non si tratta di soltanto regolare in termini di contabilità di Stato un problema. Ecco perché serve soprattutto una scelta di tipo comunitario, cioè una tutela dell'interesse generale europeo. Non serve una tutela dei singoli stati membri che si preoccupano di tutelare il loro sia pur legittimo interesse. Serve la risposta di tipo comunitario. Questa è la vera differenza. È vero che nulla è, anche la scelta degli Eurobond, anche la scelta della Banca Centrale Europea più forte, è una scelta a favore dell'Europa comunitaria. Certo. L'obiettivo finale sono gli Stati Uniti d'Europa. Non mi voglio sottrarre però alla domanda del conduttore sul ritardo dei pagamenti. Ecco. Io ho chiesto prima al ministro Bernini nel governo Berlusconi, qualche mese dopo al ministro Passera nel governo Monti, di recepire in Italia, prima del termine ultimo che è marzo 2013, la direttiva europea che ormai è legge europea prima della scadenza finale. Questo significa mettere in circolo in Italia una ottantina di miliardi che darebbero ossigeno alle piccole e medie imprese, le quali non soltanto sarebbero pagate in termini normali, la regola è 30 giorni massimo, 60 per alcuni settori, compresa la sanità, con una penale dell'8%. La regola vale non soltanto pubblica amministrazione, imprenditori, vale anche grande impresa, piccola impresa, salvo patto in deroga, purché non pernicioso per il piccolo. Quindi anche per i fornitori, vale, diciamo, in generale. Esatto. Speriamo che venga recepita, perché il ministro Passera qualcosa sta facendo, ha sbloccato quasi 7 miliardi, ma sono quasi 70 quelli che... È un piccolo passo. Io chiedo al governo italiano di essere più coraggioso. Cosa che ho chiesto a tutti gli altri governi, non è che l'ho chiesto soltanto all'Italia, ovviamente. Allora, grazie a Gerardo Pelosi in collegamento con noi da Bruxelles, grazie al commissario Tajani, e vediamo se poi tra stasera e domani si capirà se l'indirizzo è quello più costruttivo, cioè di passare anche alla fase della crescita e non solo alla fase del contenimento dei costi. Grazie quindi al vicepresidente della Commissione Europea, nonché responsabile per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani. Grazie, buonasera. Meteo, un ritardo enorme, chiedo scusa ai colleghi, pubblicità, poi rientriamo per la borsa che ha chiuso negativa dell'1,21%, 349-238-6666 per i vostri sms. D7 17:47 minuti, un po' sballata oggi la scaletta. Devo dare anche fra brevissimo le informazioni per chi è in viaggio, non le ho dimenticate, ma insomma volevamo approfittare della presenza qui in studio del commissario Tajani per capire appunto se è vero. Mi sembra che alcune cose siano emerse, cioè, anche il commissario dice che l'immagine dell'Italia è migliorata grazie al fatto che i partiti sono coesi nel sostenere Monti, e mi sembra una dichiarazione non da poco, vista anche l'origine politica del commissario Tajani. E poi il tema, attenzione, delle politiche per la crescita, perché va bene rimettere a posto i conti, ma non ci si può massacrare immaginando che con il massacro, diciamo, delle manovre finanziarie l'economia riparta. L'economia non riparte in questo modo, crei gli elementi per avere una finanza pubblica più sana, ma poi qualche iniziativa la devi fare. E la Germania, lo dico col massimo rispetto, non dimentichi mai che quasi il 60% del suo export va nell'area europea, per cui è vero che è fortissimo in altri continenti, ma se si ferma l'Europa, e in parte si è già fermata, vedi bene che il PIL tedesco quest'anno, invece che crescere del 2%, crescerà dello 0,5%. Comunque, la borsa, adesso vi arriviamo, -1,21% Milano, peggio ha fatto Parigi, -1,60%, Francoforte -1%, Londra -1,20%, l'America -0,70% come calo, e l'euro a quota 1,31,06. Facciamo una cosa, il traffico, e poi diamo il commento di borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, 17:50 minuti, arriviamo anche alla vicenda fondiaria SAI, non vi preoccupate, nel senso che molti messaggi che abbiamo ricevuto, devo dire, da un lato, dall'altro anche gli sviluppi dell'ultima ora. Fondiaria SAI vuol dire anche chiaramente Unipol. Dicevo, della borsa, oggi non c'è l'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore che ci accompagna sempre in questi avvenimenti, nel commento finale in assemblea sindacale. Vi dovrete accontentare della mia modestissima persona. Già dalla mattinata, per via anche delle attese sia dal vertice europeo ma soprattutto le attese sul fronte greco, dove appunto vanno avanti con molte difficoltà le trattative tra Stato e governo. Tra l'altro, nel fine settimana è venuta fuori una polemica di cui accennavamo prima col commissario Tajani per quello che riguarda l'attacco tedesco. La Germania ha detto a mezzo stampa: bisognerebbe scrivere noi quelli che sono gli impegni della Grecia. Ora è chiaro che in questo modo vai a commissariare un paese, e c'è anche l'orgoglio nazionale greco da accettare. Comunque, questi due elementi hanno tenuto deboli tutto il giorno gli indici, anche se Milano, come vedete, ha perso meno di altre borse, perché l'asta di titoli di Stato italiani, quello a cui facevamo riferimento, 2 miliardi di BTP a 10 anni, è andata bene, la riduzione al di quasi un punto percentuale. C'era chi si attendeva un po' di più. Comunque, lo spread, l'asta è andata bene perché paghiamo lo 6,08%, lo spread però è rimasto a 430 punti. A Piazza Affari, nello specifico, vendute le azioni delle banche dopo la crescita delle ultime due settimane. Unicredit altalenante perché ha investito la rotta a un certo momento, più 0,27%. Sostanzialmente Unicredit festeggiava, tra virgolette, il buon andamento e il buon esito dell'operazione sull'aumento di capitale da 7 miliardi e mezzo che si è conclusa venerdì scorso. E STMicroelectronics invece risente delle stime tagliate da varie case d'affari. E poi adesso arriveremo anche alla vicenda Finmeccanica e a quello che comporta. Tra l'altro, su questo, Finmeccanica ha iniziato la giornata perdendo il 3%, è arrivata dal peggior titolo tra quelle in maggiore capitalizzazione a perdere il 6,15%. Delle banche, dicevamo, diamo anche le cifre percentuali: -5,92% la Popolare di Milano, -5,5% Banco Popolare, -4,60% Mediobanca, -4% il Monte dei Paschi. E il giudizio e la revisione delle stime su STMicroelectronics ha fatto perdere al titolo il 3,90%, negativa anche Prismian, -4% l'ex Pirelli Cavi. Continuando e concludendo sulle banche, però, UbiBanca -3,36%, Popolare Emilia Romagna meno 2,70, Intesa meno 2,20, Intesa San Paolo, Mediolanum meno 2,15%. Non, di banche positive non ce ne sono oggi, segnaliamo semplicemente che Unicredit, dopo aver avuto anche un andamento un po' positivo, ha chiuso con un meno 2,36% e appunto Intesa San Paolo il 2,20%. Altro fronte, il lusso. Allora, sul fronte del lusso va segnalato che dopo il buon andamento della settimana scorsa, e mi riferisco a Luxottica, ma anche Tod's e quant'altro, oggi qualche realizzo, ma tengono bene i titoli, meno 0,20% Luxottica, Tod's meno 1,59% a 68 euro per azione, Luxottica meno 0,20 a 24,80 euro per azione, e Salvatore Ferragamo meno 1,60 a 12,33 euro per azione. Vi do invece un ultimo aggiornamento su Atene, che ha chiuso in rialzo dello 0,60%. La maggior parte degli investitori è in attesa di, appunto, di notizie sulle trattative, e quindi tra dubbi non dubbi, però la borsa non è crollata come è avvenuto in altri casi. Ancora, per quello che riguarda i singoli titoli, segnaliamo, oltre al fronte bancario, l'Automatica, che è l'unico tra i migliori oggi, più 1,27%, poi c'è Impregilo più 1%, Pirelli più 0,60%, Eterna invariata come Enel e Fiat e Telecom Italia, anche Eni oggi perde poco, lo 0,12%. Dicevamo di l'Automatica, beh, ancora a beneficio della decisione del TAR del Lazio, che lo ricorderete la scorsa settimana ha sospeso l'addizionale sulle vincite superiori a 5.000 euro, quanto disposto dal governo, dal precedente governo, la scorsa estate. Fondiere Assai, occhi puntati sul titolo, ma sarà l'oggetto del nostro prossimo tema dopo il GR. Vi do solo le percentuali: Premafin finanziaria meno 22%, Fondiere Assai sul risparmio meno 14%, Milano Assicurazione, che fa parte del gruppo, sul risparmio non convertibili meno 9%, e Milano Assicurazioni sulle ordinarie meno 6,70%. Unipol anche sulle privilegio perde il 6,90%, tra l'altro le Premafin sono arrivate oggi a perdere il 30%. Dopo il GR parliamo della vicenda Fondiere Assai Unipol e anche dell'arrabbiatura di molti azionisti del gruppo guidato da Ligresti. 349-238-6666 per gli sms. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Torneremo anche a Bruxelles, perché dopo il vertice a 3 sta per iniziare adesso il vertice non vero, ma insomma quello più formale, quello dei presidenti dei consigli dei capi di governo, e vedremo appunto se dopo tutto il ragionamento fatto qualcosa uscirà. Però vorrei restare adesso sul tema della vicenda Fondiaria Sai, perché oggi i titoli sono stati pesantemente venduti, lo ricordavamo nell'ultima parte della prima ora del programma, e Premafin ha perso il 22%, Fondiere Assai sul risparmio il 14%, Milano Assicurazioni sul risparmio il 9%, ancora Fondiere Assai sull'ordinario l'8,30% e Milano Assicurazioni il 6,70%. E questo è un fronte. L'altro fronte è invece quello che avete in qualche modo stimolato anche voi, come numerose email che ci avete mandato, in cui venivano sostanzialmente citate tutto un insieme di critiche all'operazione. Nel caso specifico le critiche più forti riguardavano l'acquisto e l'operazione di Unipol, che in qualche modo esclude gli azionisti di Fondiaria Assai, secondo alcuni ascoltatori che ci hanno scritto. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, parliamo di Unipol, Fondiere Assai, e anche della gestione degli azionisti Fondiere Assai. L'operazione lo ricorderete, Fondiera Sai, travolta da fortissime perdite, ha trovato come cavaliere bianco Unipol. Un miliardo il costo dell'operazione, le critiche degli ascoltatori azionisti che ci sono arrivate, insomma, un miliardo per comprare il 35%, leggo una sintesi, per comprare il 35% di una società che in borsa vale solo 90 milioni di euro, e gli azionisti Fondiera Sai nessun premio per il cambio di proprietà della società, beffati poi dall'aumento di capitale. E parliamo con Riccardo Sabatini del Sole 24 Ore, che ne ha scritto in questi giorni. Riccardo, buonasera. Salve. Allora, innanzitutto le notizie di oggi. Dopo l'accordo con cui Unipol acquisirà la quota di controllo di Premafin, che a sua volta controlla Fondiaria Sai, oggi sono usciti i dati su Fondiaria Sai. Ha chiuso il 2011 con perdite nette per 1 miliardo e 100 milioni. E la società convocherà un'assemblea dei soci con una proposta di aumento di capitale per un importo complessivo di 1 miliardo e 100 contro i 750 milioni stimati un mese fa. Allora, chiude peggio del previsto, e così si spiega l'andamento dei titoli in borsa? Sì, certo, si spiega soprattutto così. La società ha soprattutto aumentato le svalutazioni e l'aumento delle riserve. Questo è molto grave, perché in un anno e mezzo la Fondiaria Sai ha aumentato le riserve di un miliardo e mezzo. Ciò significa che queste riserve non erano state calcolate in modo corretto, in modo congruo. Questo è un aspetto molto delicato e molto grave per un'assicurazione, perché è l'aspetto più delicato del suo business. Prima i clienti pagano e poi vengono risarciti con i sinistri, ma se i soldi che devono servire per risarcirli non ci stanno perché tu li hai mal calcolati, beh, insomma, questo fa sorgere molti interrogativi anche su come nel passato sono stati vigilati le autorità di vigilanza. Eh sì, perché poi, insomma, dove erano le autorità di vigilanza, Consob, ma non solo? Beh, nel caso specifico di l'ISVAP. L'ISVAP nell'ultimo periodo è stata molto attiva, bisogna dire. È lei che ha imposto la ricapitalizzazione, però forse non l'ha fatto nel corso degli anni precedenti. Allora, domanda che, così, un po' da naif, da Verginella, ma perché Unipol si compra una società che ha avuto un peggioramento nei conti ulteriore, che adesso stima un aumento di capitale ben più grande di quello stimato un mese fa, cioè altri 350 milioni in più, cioè 1 miliardo e 100? Chi lo fa fare a Cimbri, che è l'amministratore delegato di Unipol, di rilevare la quota di maggioranza relativa di Premafin, e quindi tutto quello che controlla, Fondiaria, ma anche Milano Assicurazioni? Beh, in realtà i manager di Unipol oggi hanno in qualche misura motivato la loro scelta con due considerazioni. È un'operazione di salvataggio italiana, facendo capire che quindi c'è una sorta di operazione di sistema dietro la quale ci sarebbe in verità anche il grande creditore sia di Unipol che di Fonsai, che è Mediobanca e in parte Unicredito. E poi perché con questa operazione, questo è l'aspetto che a loro interessa di più, possono essere al vertice di un grande gruppo assicurativo che verrebbe collocato tra il primo gruppo assicurativo del settore danni e il secondo gruppo in generale in Italia dopo Generali. Questa è la loro chance, la possibilità di crescere molto rapidamente con un'operazione della vita, se possiamo dire. La questione è che però il costo, come tu dicevi, è elevato. E i report di analisti che finora ci sono stati sottolineano l'aspetto dilutivo di questa operazione. Che significa dilutivo? Cioè, significa che per quanto i soldi che vengono chiesti ai soci per partecipare al pranzo, diciamo così, sono superiori a quelli che si pensa di ricavare come utili futuri. E quindi sostanzialmente non li rivedrai sotto forma di dividendi e di utili futuri. Ma tu citavi Mediobanca. Allora, le accuse anche dei nostri ascoltatori più forti sono state di due tipi. Una la ricordavo prima, cioè che ne è degli azionisti che già parteciparono all'aumento di capitale precedente in Fondiaria Sai e adesso sono chiamati a un aumento di capitale ulteriore. L'altra è di dire, insomma, che l'intera operazione va a vantaggio dei grandi creditori, inutile girarci attorno, in questo caso soprattutto Mediobanca, e poco c'è per gli e quindi mi ricollego alla prima obiezione, poco c'è per gli azionisti di Fondiaria, ma anche di Premafin e di Milano Assicurazioni. Sì, come dicevi adesso, dunque adesso il problema, mentre prima parlavamo degli azionisti di Unipol, adesso parliamo di quelli di Fonsai. Scusate se lo ripeto, ma questa è un'operazione talmente complicata che c'è il rischio di confonderci. Allora, come dicevi tu, gli azionisti di Fonsai hanno ripetutamente messo mano al portafoglio per mettere ordine in quella società e fino adesso non senza grandi risultati. Occorre dire che l'ultima volta ha partecipato all'aumento di capitale anche Unicredit, se vogliamo, che ha preso circa il 7% di una quota azionaria, e quindi lo stesso Unicredit è stato coinvolto da questo cattivo andamento, diciamo, di quell'iniziale piano di risanamento. Ora, in questa vicenda, dicevi anche tu, e sono abbastanza d'accordo, perdono tutti tranne i creditori. Perdono Premafin, perdono la famiglia di Gresti e tutto sommato ben gli sta, visto il modo con cui hanno gestito questa società. Perdono gli azionisti di Fonsai perché vedono il loro titolo crollare in borsa, cannoneggiato da questi ripetuti aumenti di capitale. Perdono in qualche misura anche Unipol, gli azionisti di Unipol, perché sono, diciamo, il titolo viene colpito dalle incertezze che da un punto di vista finanziario e di reddito questa posizione può creare. Invece, chiaramente, consolidando tutti questi crediti, in effetti i crediti di Mediobanca, 1.100 milioni di prestiti subordinati concessi a Fonsai, quelli di Unicredito, circa 300 milioni concessi a Suprema, e quelli ancora di Mediobanca, altri 400 milioni di prestiti subordinati concessi a Unipol, beh, certo, questi vengono tutti consolidati in questa nuova società e in qualche misura vengono maggiormente protetti. Sì, effettivamente si può dire che questo accordo, nell'immediato, poi vedremo nel futuro, tutti ci auguriamo che sarà una grande società molto profittevole, ma nell'immediato, diciamo, sembra proteggere più i creditori che gli azionisti di questa società. Qui abbiamo anche casi nel passato in cui si sono difesi più i grandi gruppi bancari che avevano prestato soldi a un soggetto e meno delle volte gli azionisti di questi del soggetto stesso. Penso per esempio alla vicenda Air One all'Italia, ecco, così faccio un riferimento non filo governativo, sì, con una differenza, che qui c'era un problema obiettivamente di tenuta anche complessiva del sistema. Sì, anche occorre anche dire però che alla lunga bisogna capire se questa cosa sarà, perché se le cose andranno bene saremo tutti contenti e va bene per tutti, è stata un'idea luminosa e intelligente. Resta il fatto però che concentrare i propri crediti non è proprio il massimo per una banca. Normalmente è la dispersione dei crediti che ne mitiga il rischio. Ragionamento. Dopo il traffico, vorrei però da te sapere un'ultima cosa. Ci sono le associazioni dei consumatori, Adusbef e Federconsumatori, furibonde con il commissario della Consob, il presidente della Consob, Vegas. Tant'è che sembra che anche il commissario Pezzinga lo abbia criticato. Allora, cioè, posizione rituale, in sostanza l'accusa a Giuseppe Vegas, presidente della Consob, di essersi speso troppo per questa operazione di salvataggio, quando il via libera doveva prima passare dall'ISVA per poi casomai dalla Consob. Vorrei una tua opinione su questo. Dopo il traffico, 349 238 6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Vedo che c'è chi scrive, ma insomma è assolutamente normale che il creditore, nel caso specifico Mediobanca e Unicredito, prenda i soldi prima dell'azionista. Non capisco di cosa vi stupite. No, allora è normale, ci mancherebbe. La critica mossa da molti, da alcuni osservatori, da ascoltatori, da azionisti, è stata che l'unico vantaggio in questo momento palese dell'operazione è per Mediobanca, o sarebbe per Mediobanca e Unicredito, mentre non si capiscono e sono molto più così in divenire, in forse, i vantaggi per gli azionisti sia di Unipol e anche quelli di Fondiaria Sai. Ma insomma, la posizione della Consob, le associazioni dei consumatori la criticano moltissimo, chiedono addirittura la dimissione di Vegas. Ma è vero che si è spesa fuori dal suo ruolo perché venisse conclusa l'operazione Unipol Fondiaria Sai, Unipol Premafin? Sì, che questa, anche questa è una cosa, è un'altra grana, diciamo, in questa operazione, e è tra l'altro parecchio interessante. Che cosa è successo? Vegas ha preso l'iniziativa venerdì di incontrare i vertici di Mediobanca, segnalando che la Consommai avrebbe accettato quell'operazione che si andava prefigurando. Qual era quell'operazione iniziale? L'operazione iniziale era che Unipol lanciava un'OPA a un prezzo vantaggioso nei confronti di tutti gli azionisti di Premafin, compresa la famiglia Ligresti, i quali quindi avrebbero guadagnato da questa operazione mentre invece sarebbero gli azionisti di Fonsai sarebbero rimasti a bocca asciutta. Allora Vegas ha detto che questa operazione non sarebbe mai passata e ha imposto una soluzione diversa. La soluzione diversa è che non ci sarà più alcuna OPA. Unipol farà un aumento di capitale riservato a Premafin per circa 400 milioni e quindi gli altri azionisti di Premafin rimarranno col becco asciutto, a cominciare proprio dalla famiglia Ligresti. Questo in effetti ha avuto un risultato positivo di allineare gli interessi di tutti gli azionisti di Premafin e di Fonsai, che era l'aspetto che era più infastidiva di questa operazione, perché in effetti chi aveva mal gestito la società rischiava di guadagnarci. Come è avvenuto in altri casi. Qual è il problema? Che Vegas ha preso questa iniziativa e secondo me, dico da un giudizio personale, ha fatto bene, nel senso che da un punto di vista concreto è stato meglio aver anticipato gli eventi piuttosto che andarne a ruota. Peccato che ha preso un'iniziativa personale, ma lui non è il padrone della Consob. La Consob è una struttura collegiale, esistono degli uffici che scrutinano le pratiche e quindi in effetti le critiche... Il rituale è cosa che gli è stata rimproverata da un commissario, Pezzinga, e ha portato con sé anche l'interrogazione parlamentare, richiesta di Audusbef di dimissioni. Per carità, anche lì l'Adusbef prima lo criticava perché si difendevano gli azionisti di Premafin in dispregio di quelli Fonsai. Avrebbe dovuto almeno apprezzare questo aspetto. Sì, per carità, il rispetto delle forme è sempre importante, però anche i contenuti, la sostanza, se hai evitato che i Ligresti ci guadagnassero pure dopo il dissesto che hanno creato e obblighi a un aumento di capitale, secondo me l'operazione forse è rituale, forse non ha rispettato la forma, ma qualcosa di migliorativo c'è stato. Una battuta è però che c'è un dettaglio che però potrebbe essere importante. A questo punto non si capisce però chi decide in Consob, perché visto dal punto di vista delle società oggi, se io fossi un azionista di Unipol o di Premafin, cosa dovrei pensare? Che le cose andranno come me l'ha dette Vegas o come chissà me lo diranno gli altri commissari e gli uffici della Consob? Ecco, questo in effetti è un aspetto bizzarro ma interessante della questione. Che ci porterebbe su un altro fronte. Grazie comunque a Riccardo Sabatini per la chiarezza anche nel raccontarci a che punto siamo del guado in questa operazione. Spero di aver risposto anche a molte delle mail che sono arrivate e anche ai commenti che sono arrivati su Facebook. Torniamo però a Bruxelles, perché continuano ad arrivare novità proprio dal vertice straordinario dei capi di governo. Intanto Angela Merkel che ha detto, dichiarazione molto breve, ma questi, secondo la cancelliera tedesca, i temi sul tavolo dei leader europei. Es wird also in Zukunft in jedem Land eine Schuldenbremse geben und damit eine. In futuro ci sarà un freno all'indebitamento in Europa, con la sicurezza che sarà rispettato il patto di stabilità. In secondo luogo, intendiamo occuparci della lotta alla disoccupazione. La Germania è determinata ad abbassare il tasso di disoccupazione giovanile in Spagna e in altri paesi europei, dove questo tasso è molto elevato. Sulla Grecia invece non parleremo, perché non sono ancora emersi risultati dai negoziati sulla ristrutturazione del debito ellenico. Sergio Nava, inviato di Radio 24 a Bruxelles, buonasera Sergio. Buonasera. Insomma, un vertice europeo che si svolge sotto la neve e vabbè, ma con lo sciopero, con Bruxelles paralizzata, forse magari anche la Merkel si renderà conto di com'è la situazione in Europa. Bruxelles paralizzata dallo sciopero contro la manovra di bilancio del governo belga, non contro altri. È assolutamente uno sciopero nazionale. Sì. Allora, abbiamo sentito la Merkel prima del vertice, sta iniziando quello vero e proprio, oltre a quello a tre, fatto tra Merkel, Monti e Sarkozy. È vero che il presidente della Commissione europea, Barroso, ha proposto un team dell'Unione Europea che venga in Italia e che lavori con i governi, le parti sociali di Italia, Grecia e Spagna, oltre che solo l'Italia? Questa è una delle novità un po' sorpresa del vertice, che la Commissione Europea volesse concentrarsi sulla disoccupazione in particolare giovanile è noto da giorni, è stata anche resa nota una cifra di fondi strutturali che si potrebbe spendere per combattere la disoccupazione, quindi favorendo la creazione di posti di lavoro, si parla di più di 80 miliardi di euro, 8 andrebbero all'Italia, però Barroso ha dato dettagli in più e ha parlato di team di esperti in 8 paesi, tra cui appunto l'Italia, che verrebbero a lavorare col governo e le parti sociali per trovare soluzioni. Funzioneranno, ma non si sa, sarà approvata questa proposta, bisogna ancora vedere, però è, come dire, un'idea e soprattutto sposta il focus dal rigore finalmente alla crescita, allo stimolo all'occupazione, insomma di rigore in Europa ne abbiamo visto anche un po' troppo finora. Allora, e questo per quello che riguarda, diciamo, l'eventuale sostegno della Commissione Europea con questo team sulle politiche dell'occupazione. Tra l'altro, visto che è stato annunciato comunque che vi sarà il vertice famoso di Roma, Merkel, Sarkozy, Monti, quello saltato il 20 di gennaio, sarà a febbraio? Ne hanno parlato fonti italiane, si profila a metà febbraio, forse anche un po' prima del 9, perché il 9 Monti vola a Washington per incontrare Barack Obama, però si terrà. Ultima domanda che ho per te, sempre di aggiornamenti stiamo parlando, il vertice tutt'altro che concluso, ma insomma abbiamo visto che inizia a trapelare un po' di ottimismo per l'intesa su questo maledetto fiscal compact, che non vuol dire l'accordo, ho letto oggi molte inesattezze, l'accordo fiscale, vuol dire l'accordo sul bilancio, cioè obbligare con questo trattato internazionale a rispettare regole stringenti e punizioni ancora più forti sul bilancio, sul deficit e il debito. Sergio. Sì, questo fiscal compact in realtà porta una fortissima impronta tedesca, come dici tu, si parla alla fine di aggiungere rigore a rigore. Per alcuni, e sinceramente penso che abbiano abbastanza ragione, è un po' anche un doppione di regole già esistenti negli altri trattati, anzi li vengono riprese pari pari, i punti che si volevano un po' indurire poi alla fine fortunatamente per l'Italia non sono passati, almeno sembra, la certezza non l'abbiamo, però il rientro del debito pare che il governo Monti abbia ottenuto di poter comunque tenere. Sì, Monti ha insistito molto sul fatto che i famosi fattori, diciamo, eccezionali che possono consentire di non tenere una tabella di marcia così rigorosa vengono presi in considerazione. Ne parlavamo prima con il commissario Tajani, cioè l'idea già del ministro Tremonti era proprio questa, cioè di poter inserire delle variabili esterne nel rispetto del cosiddetto fiscal compact. Se ragionava, tu hai ragione nel dire che la Germania che lo vuole, ma il baratto, speriamo, con cui la Germania accetterà poi politiche un po' più di rilancio dell'area euro, non dico gli eurobond, ma anche quelli. Se ragionava, lo ritroverete nel corso dei nostri GR. Grazie intanto al nostro inviato a Bruxelles, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione. Si sente.